senza scermo degli stati infiniti. Mi guardo in questo fiocco verde e di tua larga pupilla erro e la vien con sole.